Libro ottavo. Dio mio, che io ricordi nel renderti grazie e confessi le tue misericordie su di me, si impregnino le mie ossa del tuo amore e dicano, Signore, chi è simile a te? Hai spezzato le mie catene. Ti dedicherò un sacrificio di lode. Narrerò come le hai spezzate. E tutti coloro che ti adorano a udire queste cose diranno «Benedetto il Signore in cielo e in terra, grande e mirabile il suo nome». Si erano abbarbicate nei miei precordi le tue parole. Da ogni parte mi assediavi. Della tua vita eterna ero certo, sebbene la vedessi in enigma e come in uno specchio. E comunque ogni dubbio sulla tua sostanza incorruttibile e sulla derivazione da essa di ogni altra sostanza mi era sparito e desideravo non tanto una maggiore certezza sul tuo conto, quanto piuttosto una maggiore stabilità in te. Riguardo invece la mia vita temporale, tutto era incerto. Il mio cuore andava ripulito del lievito vecchio e la via, il Salvatore, in sé mi piaceva. Ma mi spiaceva ancora attraversare le sue strettoie, ecco. E mi ponesti nella mente l'idea che mi sembrò buona, al mio cospetto, di recarmi da Simpliciano. Mi pareva tuo buon servitore e in lui riluceva la tua grazia. Avevo anche sentito dire che sin dalla giovinezza viveva tutto a te consacrato. Ero ormai vecchio allora e mi sembrava che in quella lunga vita così ben dedicata alla ricerca della tua via dovessi avere molto sperimentato e molto appreso, e così era realmente. Volevo perciò confidargli i miei turbamenti e che mi spiegasse cosa dovesse fare uno nel mio stato per avanzare, no, nella tua via. Vedevo infatti la chiesa piena, ma chi ci andava in un modo, chi in un altro. E non mi piaceva inoltre la mia attività secolare, e mi pesava assai, non più infiammato com'ero dalle passioni d'un tempo, dalla speranza di onori e di denari, a sopportare una schiavitù tanto dura. Ecco, quelle cose non mi davano più alcuna gioia a confronto della tua dolcezza e della bellezza della tua casa che ho amato. Ma una cosa continuava ancora a tenermi tenacemente avvinto: la donna. Sì, l'apostolo non mi vietava di sposarmi, per quanto esortasse a una perfezione superiore, desiderando massimamente che tutti gli uomini fossero come lui. Ma io, ancora troppo debole, preferivo la posizione più comoda. Ed era questa l'unica ragione del mio essere senza nervo. In tutto il resto è consumato da marci di pensieri, poiché la vita coniugale alla quale mi sentivo votato e legato mi costringeva anche ad altri compromessi che non avrei voluto subire. Avevo udito dalla bocca della verità che vi sono eunuchi che si mutilarono da se stessi per il regno dei cieli, ma anche chi può intendere, intenda. Vani sono certamente tutti gli uomini nei quali non c'è la conoscenza di Dio e che delle cose che appaiono buone non hanno saputo trovare colui che è. Ma io non rientravo ormai più in quel genere di vanità. L'avevo superata e su testimonianza dell'intero creato avevo trovato te, nostro creatore, e il tuo verbo, Dio, presso di te e con te, unico Dio col quale tutto hai creato. Ecco, c'è poi un altro genere di empi, no? Che pur conoscendo Dio, non in nome di Dio lo glorificano, né gli resero grazie. Caddi anche in questo. E la tua destra mi raccolse, e mi togliesti di lì, e mi posasti dove potessi guarire. Poiché hai detto all'uomo, ecco, la pietà è sapienza. E non cercare d'apparire sapiente, poiché coloro che si dissero sapienti divennero stolti. Avevo ormai trovato la perla preziosa, ma per comprarla dovevo vendere tutto ciò che avevo. Ed esitavo. Mi recai dunque da Simpliciano, padre spirituale dell'allora vescovo Ambrogio, e che Ambrogio amava veramente come un padre. Gli raccontai il Dedalo del mio errore, ma quando accennai alla lettura di alcuni libri di platonici che Vittorino aveva tradotto in latino, si felicitò con me per non essermi imbattuto negli scritti di altri filosofi pieni di inganni e trabocchetti. Poi, per esortarmi all'umiltà di Cristo celata ai sapienti e rivelata ai piccoli, prese a evocare i suoi ricordi proprio di Vittorino, che nel periodo in cui era stato a Roma aveva conosciuto molto intimamente, e mi raccontò di lui cose che non tacerò, perché offrono occasione di rendere grande lode alla tua grazia. Allora, quel vecchio, dottissimo, ferratissimo in tutte le discipline liberali, che tanto aveva letto e vagliato di filosofia, maestro a sua volta di tanti nobili senatori, e che anche in virtù del suo prestigioso magistero s'era meritato e aveva accettato, onore giudicato eccezionale dai cittadini di questo mondo, una statua nel foro romano, sino allora era stato adoratore di idoli e partecipe di riti sacrileghi, per invasamento dei quali quasi tutta la nobiltà romana diffondeva il proprio culto. Orbene, proprio il vecchio Vittorino, che per tanti anni li aveva difesi con terrificante eloquio, non aveva arrossito di farsi schiavo del tuo Cristo e di rinascere alla tua fonte, piegando il collo al giogo dell'umiltà e chinando la fronte alla vergogna della croce. Oh Signore, Signore, che hai abbassato i cieli e sei disceso, che hai toccato i monti e si sono messi a fumare, in quali modi ti sei insinuato in quel petto? Leggeva, come raccontò Simpliciano, la Sacra Scrittura e cercava tutti i testi cristiani con sommo zelo e li studiava a fondo e diceva a Simpliciano, non in pubblico ma in privato, in gran confidenza, sappi che ormai sono cristiano. E quello rispondeva, non lo crederò né ti considererò cristiano finché non ti avrò visto nella Chiesa di Cristo. Quello allora replicava ironicamente, sono dunque i muri a fare i cristiani? E lo ripeteva spesso, che ormai era cristiano. E Simpliciano rispondeva sempre allo stesso modo, e lui replicava ironizzando sui muri. In realtà temeva ad offendere i suoi amici, superbi adoratori del demonio, figurandosi che dall'alto della loro babilonica magnificenza si sarebbe rovinosamente roversata su di lui la loro inimicizia. Ma dopo che, leggendo avidamente, attinse la fermezza necessaria e temette d'essere rinnegato da Cristo dinanzi agli angeli santi se avesse temuto di confessarlo davanti agli uomini, e parve a se stesso reo di sommo crimine ad arrossire dei ministeri del tuo umile verbo, senza arrossire dei riti sacrileghi dei superbi demoni di cui era diventato l'orgoglioso imitatore. Ecco, depose ogni pudore di fronte alla vanità e arrossì di fronte alla verità. E improvvisamente, quanto inopinatamente, disse a Simpliciano: «Andiamo in chiesa, voglio farmi cristiano». E quello, fuori di sé dalla gioia, ve lo accompagnò. Ricevuti là i primi rudimenti dei misteri, non molto tempo dopo diede anche il suo nome per essere rigenerato nel battesimo, tra lo stupore di Roma e il gaudio della Chiesa. I superbi vedevano e s'adiravano, digrignavano i denti e si rodevano. Ma per il tuo servo, il Signore Dio, era la sua speranza e non volgeva lo sguardo alle vanità e alle follie menzogniere. Venuto al fine il momento della professione di fede, che a Roma quanti intendono accostarsi alla tua grazia sogliono pronunziare da un luogo elevato al cospetto del popolo dei fedeli con le parole di una formula fissa, appresa e mandata a memoria, raccontava Simpliciano che i presbiteri offrirono a Vittorino la possibilità di compiere il rito in forma privata, come si permetteva a chi si temeva si potesse confondere per timidezza. Ma egli preferì professare la sua salvezza al cospetto della santa moltitudine. Non era certo la salvezza che insegnava come retore, eppure aveva insegnato retorica pubblicamente. E beh, quantomeno avrebbe dovuto vergognarsi di pronunziare la tua parola davanti al tuo mansueto gregge, uno che non si vergognava di pronunziare le parole sue davanti a turbe di pazzi. Così, quando salì per la professione, tutti si scambiarono l'un l'altro il suo nome in un fragoroso brusio d'approvazione, ciascuno per quanto lo conosceva. E lì chi non lo conosceva? E risuonò sottovoce sulla bocca di tutti un comune, gioioso «Vittorino, Vittorino!». Subito esclamarono di gioia al vederlo, subito tacquero attenti per ascoltarlo. Pronunziò il suo atto di vera fede con luminosa sicurezza e tutti avrebbero voluto rapirlo dentro il proprio cuore. E lo rapirono con l'amore e con la gioia. Erano queste le mani dei rapitori. Buon Dio, ma cosa avviene nell'uomo che lo fa gioire della salvezza di un'anima che aveva cessato di sperare ed è stata liberata da un pericolo maggiore, più che se non avesse mai perso la speranza o il pericolo fosse stato minore? Ma anche tu, Padre misericordioso, ti rallegri maggiormente per uno solo che si pente, che non per 99 giusti che non necessitano di pentimento. E anche noi proviamo gran gioia a sentire di pastori esultanti che riportarono in spalla la pecora smarrita, o d'una donna che tra le congratulazioni dei vicini ripone nel suo forziere la dracma ritrovata. E corrono lacrime di gioia per la festa della tua casa, quando nella tua casa leggiamo del tuo figlio minore che era morto ed è rinato, che era perduto ed è stato ritrovato. Ma sei tu che gioisci in noi e nei tuoi angeli santi di santo amore, poiché sempre uguale a te stesso, le cose che non sono né sempre né nello stesso modo, tutte nello stesso modo e sempre le conosci. Ma cosa avviene dunque nell'anima che la fa gioire delle cose perdute e ritrovate che ama, più che se le avesse sempre conservate? Ogni altra cosa lo conferma e ogni luogo è pieno di testimonianze che lo proclamano. È così. Il comandante vittorioso celebra il trionfo e non avrebbe vinto se non avesse combattuto. E quanto più grande è stato il pericolo corso in battaglia, tanto più grande è la gioia del trionfo. Una tempesta sballotta i naviganti e minaccia un naufragio. Tutti sbiancano in viso per la morte imminente. Si placa il cielo e il mare e troppo esultano perché troppo hanno temuto. È malata una persona cara e il polso rivela il suo stato. Ecco, tutti quelli che la vorrebbero salva s'ammalano con lei in cuor loro. Poi migliora, non ha ancora ripreso a camminare con l'energia di prima, che già s'avverte una contentezza che non c'era prima, quando camminava in forza e in salute. Ai piaceri stessi della vita umana, gli uomini se li procurano mediante fastidi, ma non solo imprevisti e involontariamente patiti, ma anche previsti, volontari. Nel mangiare e nel bere non c'è alcun piacere se non è preceduto dal disagio, della fame e della sete. I bevitori mangiano certe salse piccanti che aggravano l'arsura, e il piacere sta appunto nell'estinguerla bevendo. E c'è l'usanza che la sposa non sia consegnata subito dopo il fidanzamento, affinché il marito non la disprezzi come cosa di poco conto per averla avuta senza averla sospirata un po' da fidanzato. Così è. Nelle gioie turpi ed esegrande, così in quelle permesse illecite, così nella purezza dell'amicizia più sincera, così in colui che era morto ed è rinato, che era perduto ed è stato ritrovato, ecco, dovunque una gioia più grande è preceduta da un più grande disagio. Ma cos'è questo? Signore mio Dio, dal momento che tu, eterno a te stesso, sei tu stesso la gioia, e talune creature a te d'intorno di te godono perennemente, perché invece in questa parte del creato s'avvicendano declino e ascesa, contrasto o accordo? O è appunto questo il suo limite? La parte che le hai assegnato, allorché dalla sommità dei cieli alla profondità della terra, dall'inizio alla fine dei secoli, dall'angelo all'ultimo verme, dal primo moto all'ultimo, collocasti ogni genere di cose buone e tutte le tue giuste opere, ciascuna al suo posto, e ciascuna attuasti al suo tempo. Ahimè, quanto sei eccelso nelle cose eccelse e profondo in quelle profonde. Tu non ti allontani da nessuna parte, ma noi, a fatica, ritorniamo a te. Su, Signore, agisci, e noi risveglia e richiama, accendi e rapisci in fiamma e addolcisci, amiamo, corriamo. Non sono forse in molti che da un tartaro di cecità ancor più profondo di quello di Vittorino ritornano a te e si illuminano a ricevere la tua luce? E quanti la ricevono da te e ricevono il potere di diventare tuoi figli? Se però sono pochi noti alla gente, pochi, poco di loro gioiscono anche quanti li conoscono. Quando infatti si è in molti a gioire, anche nei singoli la gioia è più grande, poiché ci riscalda e infiamma l'un l'altro. Inoltre, chi è noto a molti è di stimolo alla salvezza, e molti precede che lo seguiranno. Ed è per questo che tanti ne gioiscono, anche quanti l'hanno preceduto, perché non è solo per lui che gioiscono. Ma non sia mai che nella tua tenda i ricchi siano accolti meglio dei poveri e i nobili meglio dei plebei, perché anzi hai scelto ciò che è debole in questo mondo per confondere ciò che è forte, e hai scelto ciò che in questo mondo è vile e spregevole, ciò che non è nulla, come se fosse qualcosa, per abolire ciò che è. Quando il tuo servo Simpliciano mi ebbe narrato la storia di Vittorino, bruciai dal desiderio di imitarlo. Ed era proprio per questo che l'aveva narrata. Quando poi aggiunse anche questo, che al tempo dell'imperatore Giuliano un editto aveva vietato ai cristiani di insegnare letteratura e retorica, e che a tale legge egli si era piegato, preferendo abbandonare la scuola delle chiacchiere anziché la tua parola, con la quale rendi eloquente la lingua di chi non sa parlare, a me non parve più coraggioso che fortunato, poiché aveva colto l'opportunità di dedicarsi interamente a te. Ecco, ciò a cui aspiravo a mia volta. Impedito non da ferree catene altrui, bensì dalla ferrea volontà mia. Il mio volere era in mano al nemico, che ne aveva fatto una catena e mi teneva imprigionato, giacché la volontà traviata genera la passione e la soggezione alla passione genera l'abitudine e il cedimento all'abitudine genera la necessità. Ecco, con questa specie di anelli agganciati l'uno all'altro, perciò ho parlato di catena, mi teneva avvinghiato una dura schiavitù. Ma la volontà nuova che stava nascendo in me, di servirti gratuitamente e goderti Dio, unica felicità sicura, non era ancora in grado di prevalere sulla vecchia, rafforzata dal tempo. Ecco, così le mie due volontà, una vecchia e una nuova, l'una carnale e l'altra spirituale, erano in conflitto tra loro. E nella loro discordia dissipavano la mia anima. E sperimentavo così in me stesso il significato di ciò che avevo letto, come la concupiscenza della carne fosse contro lo spirito e quella dello spirito contro la carne, essendo me stesso nell'uno e nell'altra. Ma più me stesso in ciò che in me approvavo, che non in ciò che disapprovavo. Qui, infatti, di me non c'era quasi più niente, poiché per la maggior parte era un subire, non un agire volendo, piuttosto che un agire volendo. E tuttavia l'abitudine si era fatta più combattiva dentro di me, e ciò veniva da me, poiché volendo ero giunto dove non avrei voluto. E con che diritto ci si poteva opporre se al peccatore toccava una giusta pena? Né valeva più la scusa di prima, quando amavo pensare che non lasciavo ancora il mondo per servirti perché avevo una percezione incerta della verità. Ecco, ormai anch'essa era del tutto certa. Ma io, ancora legato alla terra, rifiutavo di farmi tuo soldato e temevo di uscire da tutti i ceppi, proprio come avrei dovuto temere di essere incatenato. Così, il fardello della vita mondana, come accade nel sonno, mi pesava dolcemente, e i pensieri che ti rivolgevo assomigliavano agli sforzi di chi vorrebbe svegliarsi, ma vinto dalla profondità dell'assopimento, ripiomba nel sonno. E come non c'è chi voglia dormire sempre, no? E per comune buonsenso è preferibile stare svegli. Tuttavia, quando il torpore appesantisce le membra, amiamo ritardare, no, il momento di scuoterci dal sonno. E pur avendone già abbastanza, lo assaporiamo con un più gusto, sebbene sia giunto il momento di alzarci. Ecco, così ero certo che era meglio consegnarmi tutto al tuo amore che cedere alla mia passione. Ma quello mi piaceva e vinceva. Questo mi era gradito e mi avvinceva. Non sapevo cosa rispondere a te che mi dicevi: «Sorgi, tu che dormi!» risorgi dai morti, Cristo ti illuminerà. E mentre dovunque mi mostravi la verità di quanto dicevi, io, pur di tale verità convinto, non sapevo rispondere, se non a parole strascicate, sonnolente, come tra poco. Ecco, tra poco, ancora un istante. Ma quei tra poco e tra poco duravano non poco, e quell'ancora un istante durava un'eternità. Vanamente mi compiacevo della tua legge secondo l'uomo interiore, quando un'altra legge nelle mie membra lottava contro la legge della mia mente e mi faceva prigioniero sotto la legge del peccato che era nelle mie membra. E questa legge del peccato è la forza dell'abitudine, che trascina e lega l'anima anche suo malgrado, e giustamente, poiché vi cade di sua volontà. Chi dunque poteva liberarmi nella mia miseria da questo corpo di morte, se non la tua grazia per Gesù Cristo nostro Signore? E ora narrerò in che modo tu mi liberasti dalla catena del desiderio carnale, che strettissimamente mi legava, e dalla schiavitù degli affari mondani. E lo confesserò a gloria del tuo nome, Signore, mio soccorritore e mio Redentore. Facevo le solite cose, con ansietà crescente, e ogni giorno levavo a te i miei sospiri e frequentavo la tua chiesa, non appena me lo consentivano gli affari sotto il cui peso gemevo. Era con me Alipio, libero dagli impegni legali dopo 3 assessorati, in attesa di qualcuno a cui vendere di nuovo i suoi pareri, così come io vendevo l'arte di parlare, sempre che la si possa trasmettere con l'insegnamento. Quanto a Nebridio, cedendo alla nostra amicizia, era diventato assistente nell'insegnamento di Verecondo. Un giorno dunque, ecco che viene a trovarci, me e Alipio, Nebridio non c'era, non mi ricordo perché, un certo Ponticiano, nostro concittadino, in quanto africano, che aveva una posizione molto importante a palazzo. Non so cosa volesse da noi. Ci sedemmo per conversare, e il caso volle che sopra un tavolo da gioco che ci stava davanti, egli notasse un libro. Lo prese, lo aprì, e trovò l'Apostolo Paolo. E fu per lui una vera sorpresa. Si aspettava, infatti, che fosse uno dei libri che mi affaticavo a spiegare a scuola. Allora mi guardò sorridendo, si congratulò con me, dicendosi piacevolmente sorpreso ad avermi colto a leggere quel libro, e quello solo. Era appunto cristiano e battezzato, e spesso si prosternava in chiesa davanti a te, Dio nostro, in frequenti e diuturne preghiere. Avendogli io replicato che mi dedicavo con il massimo impegno a quel libro, ne nacque una conversazione. Ed egli narrò di Antonio, monaco egiziano, il cui nome rifulgeva di chiara fama tra i tuoi servi, ma era rimasto fino a quel momento a noi ignoto. Ecco, quando se ne rese conto, si dilungò nei particolari, spiegando un così grand'uomo a noi, che l'ignoravamo, e stupendosi della nostra ignoranza. E beh, ci stupivamo noi pure a udire le sue meraviglie, così ben attestate nella retta fede e nella Chiesa cattolica, e così recenti da essere quasi contemporanee. Beh, tutti eravamo meravigliati, noi che fossero così grandi, e lui che non ne avessimo mai udito parlare. Passò poi a raccontare della moltitudine di monasteri, della vita ispirata alla tua soave fragranza, dei fecondi deserti dell'eremo, cose di cui nulla sapevamo. Anche a Milano c'era un monastero pieno di buoni fratelli fuori le mura, cui provvedeva Ambrogio, e noi non lo sapevamo. Beh, quello infervorato continuava a parlare e noi, rapiti, ascoltavamo. E venne così a dire che, non ricordo quando, ma il luogo era sicuramente Treviri, lui e tre suoi camerati, mentre l'imperatore era trattenuto dallo spettacolo pomeridiano del circo, se ne erano usciti a passeggiare nei giardini attigui le mura, e lì, mentre se ne andavano appaiati a caso, lui e l'altro da una parte e gli altri due dall'altra, si persero di vista. Ma questi ultimi capitarono girovagando in una capanna abitata da alcuni tuoi servi, poveri di spirito, dei quali è il regno dei cieli. E vi trovarono un libro in cui era scritta la vita di Antonio. Uno dei due prese a leggerla e a stupirsi e a infiammarsi e a progettare, mentre ancora leggeva, di abbracciare quella vita e, abbandonato il servizio secolare, dedicarsi al tuo. Erano lui e l'altro di quei funzionari detti agenti amministrativi. Ecco, così, ricolmo d'un tratto di santo amore e irato con se stesso di sobria vergogna, guardò fisso l'amico e disse: «Dimmi, ti prego, dove vogliamo arrivare con tutte queste nostre fatiche? Cosa cerchiamo? A che scopo serviamo nell'amministrazione? Possiamo avere una speranza più grande a corte di quella di diventare amici dell'imperatore? E anche in questo cosa c'è che non sia fragile e pieno di pericoli? E per quanti pericoli bisogna passare per giungere a un pericolo ancora maggiore? E questo quando accadrà?» «Ma, amico di Dio, se lo voglio, ecco, lo divento all'istante.» Così disse. E nel travaglio del parto di questa nuova vita, tornò con gli occhi al libro e leggeva e mutava di dentro dove tu vedevi. E la sua mente si spogliava del mondo, come ben presto apparve. Mentre infatti leggeva e s'agitava l'onda del suo cuore, a un tratto ebbe un fremito. Fece la scelta. E scelse per il meglio. E già tuo, disse al suo amico, mi sono ormai strappato a quella nostra speranza. E ho deciso di servire Dio, a cominciare da questo momento e da questo luogo. Se non te la senti di imitarmi, almeno non ostacolarmi. L'altro rispose che lo seguiva, per condividere sì grande ricompensa e sì alto servizio. Ed entrambi, già tuoi, edificavano la torre al giusto prezzo di lasciare ogni loro avere e seguirti. A questo punto Ponticiano e quello che passeggiava con lui in altra parte del giardino, messisi a cercarli, giunsero in quello stesso luogo. Ve li trovarono, li esortarono a tornare perché il giorno ormai finiva, ma quelli raccontarono della decisione presa e del proposito fatto, di come una tal volontà era nata in loro e si era affermata, e li pregarono di non creare difficoltà qualora non intendessero unirsi a loro. I due, pur non modificando le loro idee, piansero su di sé, come diceva Ponticiano, si congratularono affettuosamente con loro e si raccomandarono alle loro preghiere. Poi, riportati i loro cuori in terra, se ne andarono al palazzo, mentre gli altri, fissati i loro cuori in cielo, rimasero nella capanna. Entrambi erano promessi. Le fidanzate, udite queste cose, dedicarono anch'esse a te la loro verginità. Questo narrava Ponticiano. Ma tu, Signore, mentre lui parlava, mi ritorcevi verso me stesso, distogliendomi il volto dalla schiena verso cui m'ero rigirato, per non guardarmi, e mi ponesti dinanzi alla mia faccia perché vedessi quanto ero brutto, quanto deforme e sozzo, macchiato e piagato. Vedevo e inorridivo, e non c'era dove fuggire, lontano da me. E se anche tentavo di distogliere da me lo sguardo, restava quello con il suo racconto, e tu tornavi a rigirarmi dalla mia parte e mi mettevi a forza davanti ai miei occhi perché scoprissi la mia malvagità e l'odiassi. Ecco, la conoscevo, no? Ma la nascondevo, la reprimevo, la dimenticavo. Ma ora, quanto più ardentemente amavo quei giovani, a udire la salutare passione con cui si erano dati tutti a te per essere guariti, tanto più sprezzantemente a loro confronto odiavo me stesso, poiché molti dei miei anni erano fuggiti via con me. Forse 12 anni da quando, nel 19° anno della mia vita, leggendo l'Ortensio di Cicerone, ero stato risvegliato allo studio della sapienza e differivo il momento di rompere con la felicità terrena e dedicarmi interamente alla ricerca di quell'altra, il cui non dico ritrovamento, ma semplice studio era già da solo preferibile alla scoperta di tesori, di regni di questo mondo, i piaceri del corpo che ha un cenno. Ma affluivano d'intorno da ogni parte. Eppure io, da giovinetto assai infelice, già infelice sulla soglia della giovinezza, ti avevo pur chiesto la castità, dicendo: dammi la castità e la continenza, ma non subito. Temevo infatti che subito m'esaudissi e subito mi guarissi dal morbo della concupiscenza, morbo che preferivo saziare piuttosto che spegnere. Ed ero andato per vie perverse, seguendo una sacrilega superstizione, non perché ne fossi sicuro, ma perché la preferivo alle altre dottrine, che non indagavo umilmente, ma combattevo, no? Ostilmente. M'ero convinto che la ragione per cui differivo di giorno in giorno il momento di lasciare le speranze mondane e seguire te solo fosse che non vedevo nessun punto certo su cui orientare il mio cammino. Ma era arrivato il giorno in cui mi ritrovavo nudo davanti a me stesso e la mia coscienza dentro di me reclamava: ma dov'è la tua lingua? Non eri tu che dicevi di non essere disposto a gettare il tuo fardello di vanità per una verità incerta? Ebbene, adesso la verità è certa, no? Ma quello ancora ti opprime? Mentre le penne sono spuntate sulle tue spalle più libere da altri che non si sono logorati altrettanto nel cercarla e non hanno meditato per un decennio e più su tali cose. Ecco, così dentro mi rodevo. E con violenza mi confondevo e inorridivo di vergogna al racconto di Ponticiano. Conclusa infine la conversazione e la faccenda per cui era venuto, se ne tornò via. E io a me stesso. Cosa non dissi contro di me? Con che nerbate di pensieri non flagellai la mia anima per indurla a seguirmi nel tentativo di seguirti? Ma resisteva, si rifiutava, non cercava scuse. Tutti gli argomenti erano stati usati e vinti. Non le restava che un muto tremore e temeva come la morte d'essere sottratta al flusso dell'abitudine che la consumava a morte. Allora, nella grande rissa della mia casa interiore, quella che avevo intrepidamente ingaggiato con la mia anima nella nostra stanza più segreta. Il mio cuore, confuso nella mente e nel volto, mi precipito ad Alipio e esclamo: «E noi, cosa facciamo? Cosa significa quello che hai udito? S'alzano degli ignoranti e rapiscono il cielo, e noi, con la nostra dottrina senza anima, eccoci qui a rivoltarci nella carne e nel sangue? Forse perché ci hanno preceduti ci vergogniamo di seguirli? E non ci vergogniamo neanche di non seguirli?» Dissi qualcosa del genere, poi la mia agitazione mi strappò a lui, che se ne restava attonito a guardarmi. Le mie parole non avevano di certo un suono consueto, ma più delle parole che articolavo erano la fronte, le gote, gli occhi, il colore della pelle, il tono della voce a esprimere il mio stato d'animo. Ecco, dove abitavamo c'era un piccolo giardino che usavamo come il resto della casa. Lì e mi trascinò il tumulto del cuore, dove nessuno avrebbe potuto ostacolare la furibonda lite che avevo ingaggiato con me stesso, finché non si fosse conclusa nel modo che tu sapevi e io ignoravo. Io mi limitavo a impazzire salutarmente e a morire vitalmente, consapevole del male che ero e inconsapevole del bene che tra breve sarei stato. Ecco, mi ritirai dunque in giardino e Alipio dietro, passo passo. Non mi faceva infatti sentire meno solo il suo essere là presente. E d'altra parte, come avrebbe potuto abbandonarmi nello stato in cui ero? Sedemmo il più lontano possibile dall'abitazione. Ecco, dentro di me io fremevo tutto, sdegnato di sdegno violentissimo, perché ancora non andavo verso la tua volontà e il tuo patto, Dio mio, verso i quali mi gridavano di andare tutte le mie ossa, esaltandoli fino al cielo. Ma lì non si andava con navi, con quadriga o coi piedi, e neppure per quei pochi passi che avevo percorso dalla casa al luogo a cui sedevamo. Poiché non solo andare, ma anche arrivarci, non era altro che volerci andare. Ma in modo coraggioso, totale, non trascinare, sbatacchiare di qua e di là una volontà mezza ferita nella lotta con se stessa, con una parte che prevale e l'altra che soccombe. Ecco, mi ridussi nel travaglio di tanta incertezza a compiere col corpo tanti di quei gesti che in particolari circostanze gli uomini vorrebbero fare ma non ci riescono, o perché non hanno le membra necessarie, o le hanno ma imprigionate in catene o infiacchite dalla malattia o comunque impedite. Ecco, se mi strappai i capelli, se mi percossi la fronte, se mi abbracciai le ginocchia con le dita intrecciate, lo feci perché volli. Avrei anche potuto volere e non fare, se l'agilità delle membra non mi avesse assecondato. Feci dunque tanti e tanti gesti per i quali volere non era lo stesso che potere, e non facevo ciò che mi piaceva incomparabilmente di più e che subito volendo avrei potuto, perché subito volendo avrei voluto. Lì infatti la facoltà di fare coincideva con la volontà e il solo volere era già fare. E tuttavia non accadeva. E il corpo ubbidiva più facilmente alla fievolissima volontà dell'anima, facendo muovere le membra al minimo cenno, che non l'anima a se stessa per realizzare la propria fortissima volontà mediante la sola volontà. Sì, ma da dove nasce questo controsenso? E perché questo? Mi illumini la tua misericordia. E io lo chiederò, se mai possono rispondermi i recessi delle miserie umane e le tenebrosissime afflizioni dei figli di Adamo. Da dove questo controsenso? E perché? L'anima comanda il corpo ed è subito obbedita. L'anima comanda a se stessa ed è ostacolata. L'anima comanda alla mano di muoversi È tutto così facile che a stento si distingue tra ordine ed esecuzione, no? Eppure l'anima è anima, la mano è corpo, no? L'anima comanda all'anima di volere, non è qualcosa di diverso, eppure non lo fa. Ma da dove questo controsenso? Perché? Le comanda di volere, ripeto, e non comanderebbe se non volesse. Eppure il comando non è eseguito. Il fatto è che non vuole del tutto e perciò non comanda del tutto. Comanda infatti per quel tanto che vuole e non è eseguito ciò che comanda per quel tanto che non vuole. Poiché la volontà comanda che a volere sia una volontà, non diversa, ma proprio essa stessa. Quindi non comanda tutta intera, ed è per questo che il suo ordine non viene eseguito. Se infatti fosse tutta intera, non comanderebbe di essere, perché già sarebbe. Non è dunque un controsenso, in parte volere e in parte non volere, ma piuttosto una malattia dell'anima, giacché sotto la spinta della verità non riesce a rialzarsi del tutto, no? Tenuta giù dal peso dell'abitudine. Vi sono pertanto due volontà, ciascuna delle quali è incompleta, e quel che ha l'una manca all'altra. Guarda, scompaiono dal tuo volto, Dio, come in effetti scompaiono i ciarlatani, i seduttori della mente, quelli che, avendo avvertito che le volontà sono due, e asseriscono a esservi due nature delle due menti, una buona e una malvagia. Loro sì sono malvagi a pensare tali malvagità, e saranno buoni solo se perceranno la verità e s'accorderanno con la verità, così che il tuo apostolo potrà dire loro: foste un tempo tenebra, ora invece luce nel Signore. Essi invece, volendo essere luce non nel Signore, ma in se stessi, poiché ritengono che la natura dell'anima è ciò che è Dio, sono diventati più oscuri della tenebra, poiché non con agghiacciante arroganza, poiché con agghiacciante arroganza si sono allontanati sempre di più da te, vera luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Badate a ciò che dite, arrossite e accostatevi a lui e fatevi illuminare. Il vostro volto non arrossirà. Io, mentre deliberavo di entrare finalmente al servizio del Signore mio Dio, come da tempo progettavo di fare, ecco, ero io a volere, io a non volere, io, e non volevo pianamente, né pienamente non volevo, e così lottavo con me stesso, e mi distaccavo da me stesso, e il distacco avveniva sì mio malgrado, ma non rivelava la natura di una mente estranea, bensì il castigo della mia. E non ero neppure io a provocarlo, bensì il peccato che abitava in me come punizione del peccato compiuto nella più grande libertà. Poiché ero figlio di Adamo. Già che se le nature contrarie sono tante quante le volontà che si contrastano, non saranno due, no? Bensì molte. Se uno è incerto se recarsi a una loro riunione o a teatro, subito si mettono a gridare: ecco le due nature, una buona che conduce da una parte, l'altra cattiva che induce dall'altra. E beh, da dove altrimenti questa esitazione tra due volontà contrastanti? Io invece le dico entrambe cattive, sia quella che conduce da loro che quella che induce a teatro. Essi però credono che non possa essere che buona quella che porta da loro. Ma come? Se uno di voi dovesse decidere, esitando tra due volontà contrastanti, se recarsi a teatro nella nostra chiesa, non esiterebbero anch'essi a dare una risposta? O infatti riconosceranno, e non vogliono, che è per buona volontà che ci si rega nella nostra chiesa, come fa chi è stato iniziato ai suoi sacramenti e ne è posseduto? Oppure riterranno che due cattive nature e due cattive volontà si combattono in una stessa persona? E in tal caso non è vero il loro assioma che ve ne sia una buona e una cattiva, ovvero si convertiranno alla verità e non negheranno che quando uno deve prendere una decisione, un'anima sola fluttui tra verità diverse. Non dicano dunque, vedendo due volontà combattersi in una sola persona, che è la lotta tra due menti opposti, una buona, una cattiva, derivate da due sostanze opposte, da due principi opposti. Tu, infatti, Dio verace, li disapprovi e confuti e smascheri, come nel caso di due volontà entrambe malvagie, no? Come ad esempio, se uno è incerto se uccidere un uomo col veleno o col ferro, no? Se appropriarsi di quel fondo o di quell'altro, non potendo d'entrambi, se procurarsi il piacere col lusso o risparmiare il denaro per avarizia, se andare al circo o a teatro, nel caso gli spettacoli abbiano luogo lo stesso giorno. E aggiungo un terzo motivo di incertezza, se compiere un furto in casa d'altri, presentandosi nell'occasione, e ne aggiungo un quarto. Se compiere adulterio, nel caso si dischiuda nel contempo anche tale opportunità, ebbene ammettendo che tutte queste alternative si presentino nel medesimo istante, no? E siano tutte parimenti desiderabili e parimenti incompatibili l'una con l'altra, essi dilanieranno l'animo nella lotta tra quattro volontà, o anche più in conflitto reciproco tra tanta abbondanza di cose appetibili, eppure di solito non ammettono, no? Un così grande numero di sostanze diverse. Ma lo stesso vale per le volontà buone, eh? Chiedo loro se sia bene godere della lettura dell'Apostolo, e se sia bene godere di quella di un pio salmo, e se sia bene commentare il Vangelo. Risponderanno alle singole domande, è bene. E allora? Se tutte queste possibilità ci piacciono nello stesso modo e nello stesso tempo, non si hanno volontà diverse che dividono il cuore dell'uomo nel momento di decidere quale preferire. Sono tutte buone e lottano tra di loro, no? Finché non si attui la scelta che faccia convergere in un solo fine tutta la volontà, ormai unica, che prima era divisa in molte. Lo stesso vale anche quando l'eternità attrae verso l'alto e il piacere di un bene terreno trattiene verso il basso. È la stessa anima a volere l'una cosa o l'altra, ma non con tutta la volontà. E perciò è dilaniata da gravi affanni, la verità facendole preferire la prima, l'abitudine impedendole di abbandonare l'altra. Così ammalato, mi torturavo accusando me stesso ben più aspramente del consueto, contorcendomi e dibattendomi nella mia catena finché non l'avessi spezzata del tutto, perché ormai mi tratteneva logorata all'estremo, ma ancora mi tratteneva, e tu mi incalzavi, Signore, nei miei segreti e con severa misericordia raddoppiavi le nerbate nel timore e della vergogna finché non cedessi nuovamente, facendo sì che quella ormai logora e lisa catena che era rimasta non si spezzasse, anzi rinvigorisse e mi stringesse ancora con più forza. Mi dicevo infatti di dentro, ecco, adesso è il momento, e così dicendo mi appesantivo, mi appressavo la decisione, stavo già per fare, ma non facevo, e tuttavia non ricadevo al punto di prima, ma mi fermavo lì, vicino e riprendevo fiato, poi ritentavo ancora un poco e ci riuscivo ancora un poco e già toccavo la meta e la tenevo, ma non ci riuscivo e non toccavo e non tenevo, esitando a morire alla morte e a vivere alla vita, e aveva maggior potere su di me il peggio inveterato del meglio inusitato, e quanto più s'appressava l'istante in cui sarei stato un altro, tanto più spavento mi incuteva. Non mi ricacciava indietro, né mi deviava, ma mi teneva come sospeso. Erano le futilità più futili a trattenermi, le vanità più vane, le mie vecchie amiche mi scuotevano la veste carnale sussurrando: «Ma vuoi congedarci? Da questo momento non saremo più con te in eterno. Da questo momento non potrai più fare né questo né quest'altro in eterno». E che cosa non suggerivano con quello che ho chiamato questo e quest'altro? Che cosa non suggerivano? Dio mio, che la tua misericordia l'allontani dall'anima del tuo servo. Quali sozzure non suggerivano, quali turpitudini. Ma le udivo assai meno della metà. Era come se non mi contrastassero a viso aperto, venendomi incontro, ma mi mormorassero alle spalle, no? Mi pizzicassero di nascosto mentre mi allontanavo per farmi volgere indietro. E tuttavia mi trattenevano. Esitavo a strapparmi, a scrollarmi da loro e a giungere d'un balzo, no? Dove ero chiamato. Perché l'abitudine mi diceva, indispettita, ma credi che ne potrai fare a meno? Ma lo diceva con voce ormai debolissima. Dalla parte verso cui guardavo, a cui temevo di passare, mi si dischiudeva la casta dignità della continenza, serena, lieta, senza dissolutezza, che amabilmente mi invitava a venire, a non esitare, e tendeva per afferrarmi e stringermi a sé le sue mani devote, colme di greggi e di buoni esempi. Lì, tanti fanciulli e fanciulle. Lì tanti giovani, tanti uomini d'ogni età, e vedove gravi e vecchie, ancora vergini, e in tutti la continenza non era affatto sterile, bensì feconda madre di figli, di gioie, ricevute dallo sposo, che sei tu, o Signore. E mi scherniva con scherno di incoraggiamento, come per dirmi: ma non sarai tu capace di fare ciò che hanno fatto questi uomini, queste donne? O forse questi uomini e queste donne sono capaci da se stessi e non nel Signore Dio loro? Il Signore Dio loro mi ha dato a loro. Perché vuoi stare ritto da solo? E non stai ritto. Gettati in Lui senza paura. Non si ritrarrà per farti cadere. Gettati tranquillamente, ti accoglierà, ti guarirà. Io arrossivo assai, perché sentivo ancora il brusio di quelle tali futilità ed esitavo, non agivo. E lei di nuovo, come per dirmi: ma fatti sorda quelle immonde membra sulla terra per mortificarle. Ti raccontano delizio, ma non secondo la legge di Dio. Questa era la disputa nel mio cuore, da solo, di me contro me stesso. E Alipio, inchiodato al mio fianco, aspettava in silenzio l'esito della mia insolita agitazione. E quando da profondità misteriose una profonda meditazione trasse e riunì tutta la mia miseria al cospetto del mio cuore, si scatenò un'immane tempesta, portando un'immane pioggia di lacrime, e per scaricarla tutta coi suoi gemiti mi alzai dal fianco di Alipio. La solitudine mi appariva più adatta alle esigenze del pianto, e mi ritirai di quel tanto che impedisse anche alla sua presenza d'essermi di peso. Ecco, ero in questo stato, ed egli se n'accorse. Devo forse aver detto qualcosa da cui si capiva che il suono della mia voce era già carico di pianto, e in questo stato mi alzai. Egli rimase dove eravamo seduti, esterrefatto. Non so cosa, non so come. Io mi gettai a terra sotto un albero di fico, allentai le briglie delle lacrime e proruppero fiumi dai miei occhi. Sacrificio a te accetto, e parlai a lungo, se non con queste precise parole, con questo sentimento. E tu, Signore, fino a quando? Fino a quando, Signore, t'adirerai? Sino alla fine? Dimentica le nostre iniquità d'un tempo. Sentivo, infatti, e continuavo a trattenermi, lanciando grida miserevoli. Quanto tempo ancora e ancora, domani e domani, ma perché non subito, perché non farla finita proprio ora con la mia turpitudine? Ecco, questo dicevo e piangevo con tutta l'amarezza del mio cuore contrito. Ed ecco, odo una voce come di fanciullo, fanciulla, non so, dalla casa vicina, che cantando diceva, e più volte ripeteva, prendi leggi, prendi leggi, prendi leggi, prendi leggi. Subito mutai volto. Cercai intensissimamente di ricordare se non vi fosse qualche gioco infantile in cui si ripetesse qualcosa di simile a quel ritornello, ma non mi sovvenne d'averlo mai udito. E soffocato d'impeto, l'impeto delle lacrime, mi alzai interpretando che nient'altro mi si ordinasse dall'alto se non di aprire il libro e leggere il primo capoverso in cui mi imbattessi. Avevo infatti sentito dire di Antonio, no, che era stato ammonito da un passo del Vangelo durante la cui lettura era casualmente sopraggiunto, interpretando come rivolto a sé ciò che stava leggendo. E subito per tale oracolo s'era a te convertito. Ecco, così, tutto eccitato, tornai al luogo in cui si sedeva Alipio. Lì, infatti, avevo lasciato il libro dell'Apostolo quando m'ero alzato. L'afferrai, aprì, lessi in silenzio il primo versetto su cui caddero i miei occhi. Non nelle gozzoviglie e nelle ubriacature, non nelle alcove e nelle lascivie, non nella contesa e nell'invidia, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non prendetevi cura della carne nelle sue concupiscenze. Oltre leggere non volli, né occorreva. Perché con la fine di questa frase, com'è? Se la luce della certezza fosse penetrata nel mio cuore, all'istante tutte le tenebre del dubbio si dissiparono. Allora, interposto un dito, non so quale altro segnale, chiusi il libro e col volto ormai rasserenato spiegai tutto ad Alipio. Lui a sua volta mi spiegò cosa gli succedeva dentro e che io ignoravo. Chiese di vedere che cosa avevo letto, glielo mostrai e lesse anche oltre il punto al quale ero arrivato. Ignoravo come continuava. Beh, continuava così. Ma accogliete chi è ancora malfermo nella fede. E lo intese come riferito a se stesso e me lo confidò. Subito andammo da mia madre. Le dicemmo la novità. Ne gioisce. Raccontiamo come è avvenuto. Esulta, trionfa. E benediceva te che hai potere di fare più di quanto chiediamo e comprendiamo, poiché vedeva che a mio riguardo le avevi concesso ben di più di quanto non ti avesse chiesto coi suoi miseri gemiti e pianti. Mi convertisti, infatti, a te, al punto che non pensavo più a cercare moglie, né ad altra speranza di questo mondo, stando ben saldo in quella regola della fede nella quale tanti anni prima m'avevi a lei rivelato, e convertisti il suo dolore in gioia, assai più grande dei suoi desideri, e assai più cara e casta di quella che s'attendeva con i nipoti della mia carne. Oggi, soltanto per il desiderio di visitare un luogo famoso per la sua altezza, sono salito sul più alto monte di questa regione, che non a torto chiamano Ventoso. Da molti anni avevo in animo questa gita, poiché, come tu sai, fin dall'infanzia io ho abitato in questi luoghi per volere di quel destino che regola i fatti degli uomini. E questo monte, che è visibile da ogni parte, mi stava sempre quasi davanti agli occhi. E pensando io alla scelta d'un compagno, nessuno dei miei amici, strano a dirsi, mi parve del tutto adatto. Tanto che anche tra persone care è rara una perfetta identità di volontà e di sentimenti. Ecco, l'uno era troppo pigro, l'altro troppo sollecito, questi troppo lento, quello troppo veloce, uno troppo triste, uno troppo allegro, altri troppo sventato, altri troppo prudente. Di uno mi faceva paura la taciturnità, di un altro la vivacità, di questo la pesantezza e la pinguitudine, di quello la magrezza e la debolezza. Beh, di uno mi spiaceva la freddezza, indifferenza, di un altro l'esagerata attività. Tutti difetti che, anche se gravi, si tollerano in casa, poiché l'affetto tutto sopporta e l'amicizia non ricusa alcun peso, ma che in un viaggio diventano più gravi. Alla fine mi volsi agli aiuti di casa mia e mi confidai con l'unico mio fratello, di me minore, che tu ben conosci. Egli non poteva ricevere più lieta proposta, ben contento di essere da me considerato amico e fratello. Io mi arrampicavo per il montano sentiero con passi più moderati, mentre mio fratello per una scorciatoia attraverso il crinale del monte saliva sempre più in alto. Io, più fiacco, ridiscendevo verso il basso, e a lui, che mi chiamava mostrandomi la via giusta, rispondevo che speravo di trovare un più facile accesso dall'altro fianco del monte e che non mi rincresceva di fare una via più lunga ma più agevole. Era questo un pretesto per scusare la mia pigrizia, mentre il mio compagno era ormai in cima e io erravo ancora nelle valli senza che mi apparisse da alcuna parte una via migliore. Il cammino diveniva più largo, più lungo, e l'inutile fatica mi stancava. Ecco, finalmente, ormai annoiato e pentito di quegli andirivieni, mi decisi a dirigermi direttamente in su. E quando stanco e affamato ebbi raggiunto mio fratello, che si era ormai rinfrancato con un lungo riposo, per un poco procedemmo di pari passo. Avevamo appena lasciato quel colle ed ecco che, dimentico del primo errore, io comincio a rivolgermi in basso e di nuovo, attraversate le valli alla ricerca di una via più facile, mi ritrovo in mezzo a gravi difficoltà. Io cercavo di differire la noia del salire, ma la natura non cede all'umana volontà, né può essere che un corpo, scendendo, guadagni in altezza. E mentre mi intrattenevo in pensieri terreni, ora sollevavo l'anima sull'esempio del corpo a meditazioni più alte, e mi venne in mente di consultare le Confessioni di Agostino, dono della tua amicizia, libro che, in memoria dell'autore e del donatore, porto sempre con me e sempre ho tra mano. Libretto di piccola mole, ma pieno di dolcezza. L'apro per leggere quel che mi capitava, e cosa mi poteva capitare che non fosse pieno di pietà e di devozione? Mi venne sott'occhio il decimo libro. Mio fratello, aspettando per la mia bocca una parola di Agostino, era tutto orecchi. Chiamo a testimone Dio e lui che era presente, e le prime parole che vidi furono: «E gli uomini se ne vanno ad ammirare gli alti monti e i grandi flutti del mare e i larghi letti dei fiumi e l'immensità dell'oceano, il corso delle stelle, e trascurano se stessi». Beh, stupii, lo confesso. E detto a mio fratello, il quale desiderava ascoltare ancora, che non mi disturbasse, chiusi il libro, adirato contro me stesso per quella mia ammirazione delle cose terrene, quando da un pezzo avrei dovuto imparare anche dai filosofi pagani che niente è degno d'ammirazione fuorché l'anima, per la quale nulla è troppo grande. Ecco, sazio ormai e soddisfatto di aver visto quel monte, volsi gli occhi della mente in me stesso. E da quel momento nessuno mi udì parlare finché non giungemmo al piano. Poiché quelle parole mi tenevano anche troppo tacitamente occupato. Ecco, non potevo persuadermi che esse mi fossero capitate a caso, ma mi sembrava che quel che avevo letto fosse stato scritto per me e non per gli altri. E mi tornava in mente ciò che di se stesso aveva pensato Agostino quando, leggendo come egli narra nel libro dell'Apostolo, gli accadde di notare a prima vista non nei conviti e nelle crapule, non nei convegni impudichi, non nelle contese e nelle gare, ma vivete nel Signore Gesù Cristo e non abbiate cura del corpo per la vostra concupiscenza. E questo già prima era accaduto ad Antonio, quando leggendo nel Vangelo «Se vuoi essere perfetto, va e vendi tutto il tuo e dallo ai poveri, e vieni e seguimi e avrai un tesoro nei cieli», come se queste parole fossero state scritte per lui. Volle guadagnarsi il regno di Dio. E come Antonio, udite queste parole, non chiese altro, non andò oltre, così tutta la mia lettura si contenne nelle poche parole che ho riferito. Vedi dunque, mio amato Padre, come io non voglia nulla celare ai tuoi occhi, e non solo tutta la mia vita, ma anche i singoli pensieri particolarmente ti sveli. Questi io vorrei che tu pregassi Dio che da vaghi e incerti come sono, un giorno abbiano posa e dopo essersi inutilmente volti qua e là, si volgano al fine a ciò che è unico, buono, vero, sicuro. Addio. Corus casti, tu hai scintillato, tu scintilli. Ciò che sembrava essere la vita muore, e da questa morte la vera vita scintilla. Classica reversione del defunto e del vivo, ecco, inversione, conversione. Io esitavo, confessa Agostino, esitavo ancora a morire alla morte e a vivere alla vita. Convertito non lo sarà mai, mai sicuro e tranquillo, perché la conversione si dice solo dell'istante, come di una visione, l'apparizione di un volto evanescente su un muro, o il canto di una voce nel silenzio degli alberi, breve enigma in cui il corpo è chiamato, mentre chiama l'anima a decifrare. In realtà non decifra niente. Si lascia forzare, è aperta e gode. L'anima e il corpo hanno tuttavia la risorsa di rivolgere la parola, danno del tu, alla faccia, alla voce. Le istanze del discorso confessionale sono sottoposte a mutazione, le istanze del rivolgimento, innanzitutto. Questa mutazione, mai completata, colpisce il corpo nei cinque sensi, aliena lo spirito. La conversione vigeme la sua precarietà. Il confessante si lamenta di non essere mai in tempo all'appuntamento con te. Lamento del ritardatario. Egli confessa il suo torto, scrive la colpa e l'obbedienza. Supplica che lo si salvi. Alla fine del libro d'ore, pagina dopo pagina, si eleva e si sfinisce la volontà di rimettersi nelle mani dell'altro. e che sia fatta la sua volontà.